La musica è di moda, oggi è tipo così. Ritmo essenziale, tutto commerciale, un po' promozionale, dei valori che vogliono inculcare musicisti che non possono proporre altro che non sia commerciale. Ma prima non era così, veniva premiata l'originalità, l'originalità. L'originalità può essere scambiata per pazzia o per pura follia. L'originalità ormai è una penalità in questa musica. Tutta uguale, troppo va.